Grazie, grazie Antonio. Buonasera Chiesa. Come state? Hai già detto a chi ti sta a fianco sei bellissimo? No, e allora fallo, sei bellissimo. Siamo il corpo di Cristo, è il pezzo di Gesù che vedi a fianco a te, quindi puoi dirgli che sei bellissimo e poi ti puoi accomodare. Dovevi dire solo sei bellissimo. È una frase corta e breve, ok, ci siamo, benissimo. Buonasera. Buonasera, stasera siamo in un altro salmo, siete contenti? Ok, mi piace così. Siamo stasera nel salmo 32 e l'ho scelto perché inizia come il primo salmo. Chi si ricorda come iniziava il primo salmo? Bravi, ma preparatissime queste persone, gloriose. Beato l'uomo che, e anche il 32 inizia allo stesso modo, dice beato l'uomo che. Parentesi, uomo sta per essere umano, quindi femminucce, donne meravigliose, siete incluse sia nel primo salmo che nel 32. Esseri umani, beato l'uomo, beato l'essere umano che non mettetevi in priscio, eh. Cioè il priscio è una parola barese, dialettale, che nel resto d'Italia non si capisce. E significa per i non baresi non vi entusiasmate troppo. Non, no, perché qualcuno potrebbe dire, ah, allora potrebbe fare il collegamento, no? Cioè, ah, il primo iniziava, beato l'uomo che, ha aperto una parentesi, questo 32, il beato l'uomo che, sta chiudendo una parentesi, abbiamo finito con i salmi! No, no, d'accordo? Ci rimaniamo dentro. Perché è glorioso, è bellissimo, il Signore ha tanto, tanto, tanto per noi. A parte gli scherzi, quello che mi fa salire su questo palco addirittura è proprio questa, è la convinzione che questo libro è la parola di Dio. Ogni lettera, ogni parola, ogni virgola, ogni punto è ispirata da Dio, è sua parola. Se io voglio conoscere chi Lui è, la sua volontà, devo andare a questo libro. E quindi la mia convinzione è proprio questa, che se lascio parlare il libro, questo libro, avrò un'autorità come nessun'altra, perché è la sua. E avrò una potenza come nessun'altra per cambiare e trasformare, perché non è la mia ma è la sua parola, è quello che Lui dice a noi. E questo è quello che Lui dice a noi nel Salmo 32. Vi ho già detto che il primo iniziava con beato l'uomo che, e il primo Salmo ci descriveva l'uomo beato. Vi ricordate, nel lontano 2015 abbiamo iniziato, e nel lontano 2015 ci siamo detti che l'uomo beato, l'uomo perfettamente beato, era solo Cristo Gesù. L'uomo perfetto, quell'albero rigoglioso, sempreverde, che è vicino al fiume, che porta il frutto ogni volta, quello è il beato perfetto, e solo Gesù è perfettamente beato, e solo Gesù, il Salmo finiva così, il primo, è perfettamente conosciuto dal Padre. Quindi se il Salmo 1 ci descrive il beato perfetto, il Salmo 32 ha una notizia meravigliosa, e cioè che non solo, o meglio, Cristo Gesù non è destinato, fatemi dire così, a rimanere solo. Il Salmo 32 ci mostra una via a tutti quanti noi per diventare quell'uomo beato, per diventare quell'uomo perfettamente beato e conosciuto da Dio, diventare quell'albero, diventare quel portatore di frutto nella propria vita. Siete curiosi? Vi ho incuriosito. Questo è il meraviglioso Salmo 32. Devo solo aggiungere questo. Vi ricordo che i salmi sono dei canti, delle poesie, e questi erano stati dati al popolo di Dio per essere ripetute. No, un canto si ripete facilmente, una poesia si può memorizzare velocemente per ricordarla a se stessi. Questo è quello che siamo chiamati a fare con i salmi, ricordarlo a noi stessi, predicare a noi stessi queste verità, affinché queste verità possano trasformarci. Ma aggiungo questo, i salmi non sono stati dati individualmente a una persona. Non sono stati dati solo a Davide, sono stati dati al corpo di Cristo, al suo popolo, alla sua Chiesa. Questo in particolare significa che siamo chiamati ad usarli insieme. Siamo chiamati a ricordare queste verità l'uno all'altro. E se Dio vuole, stamattina non ce l'ho proprio fatta, vediamo stasera, se Dio vuole vorrei concludere con alcuni aspetti pratici che ci aiutano a vivere le verità del Salmo 32 nei nostri gruppi, nel nostro corpo, nella nostra Chiesa. Pronti per il Salmo 32? Facciamo una cosa, ci alziamo in piedi. Concentriamo i nostri cuori a quello che è la sua parola. E ascoltiamo, ripetiamo nella nostra mente. Salmo 32, di Davide, cantico. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo o come il mulo, che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi, rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gioite voi tutti che siete retti di cuore. Signore Gesù, io prego affinché adesso questa parola possa parlare ai nostri cuori, portare cambiamento, nuova vita, Signore. In questo momento io ti prego che questa parola possa essere quella spada affilata nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Ci possiamo accomodare. Beato l'uomo che. Che cosa è essere beato? Che cosa è essere beati? Facciamo una cosa, chiudiamo tutti gli occhi, ce li avete chiusi, io ce li ho chiusi, quindi non vi posso vedere, adesso apro uno, vediamo, tutti chiusi. Provate ad immaginare lo stato più beato, più sereno, più riposato, più tranquillo, più gioioso che riuscite ad immaginare. Non so, una spiaggia con sabbia bianca, qualcosa così, la cosa più beata, più tranquilla, più bella, più gioiosa che potete, e mettetevi in quello stato. Ecco, quello significa essere beati per voi. Potete aprire gli occhi. Quando io penso all'essere beati, penso a mio figlio. Quando 15 anni fa beveva il latte di sua mamma, no? Era appena finito di bere il latte, era rosso, rosso, rosso in faccia, no? Così aveva finito, no? Quindi rosso, rosso, rosso in faccia, cioè aveva gli occhi mezzi chiusi, così, un po' così, bello, rilassato, e si lasciava andare così proprio, tranquillo. Quello era lo stato beato. Quando io penso a che cosa significa essere completamente sereni, completamente soddisfatti, ecco, mi viene quella immagine. È un pochino, significa proprio questo, l'essere beato. Significa essere felice, soddisfatto, contento, riposato. E chi è questo uomo beato? L'uomo beato è quello che è perfettamente in comunione con Dio. L'uomo è stato creato per essere perfettamente felice. Per questo tutti quanti noi siamo alla rincorsa di felicità, di soddisfazione, di riposo, e saltiamo da una vacanza all'altra cercando quella cosa che non si può trovare in quelle cose, ma solo in una comunione perfetta con Dio. Questa cosa è stata interrotta dal peccato. Il peccato ha messo quella separazione e da quel momento in poi non c'è stata più pace, non c'è stata più beatitudine. Per questo dico, l'unico perfettamente beato, riposato, conosciuto è Cristo Gesù, perché non ha mai peccato. Questo è quello che è successo. E avete notato, nei primi due versi c'è questa che a me piace chiamare la tripletta del peccato. Trasgressione, peccato e iniquità, descrive il salmista proprio. Questa tripletta, un pastore famoso lo chiamava come un cane a tre teste, no? Cercate di creare questa immagine in voi. Un cane a tre teste. E questo cane morde, strappa via la carne fino alla morte. Ma Dio, a tutto questo ha una triplice risoluzione. Avete letto insieme a me, alla trasgressione, al peccato, all'iniquità, il Signore ha una triplice risposta. Lui perdona, copre e non imputa, non conta. Il Signore ha questa triplice risposta. La sua soluzione è completa. Il Signore letteralmente significa egli perdona la trasgressione. Sapete che cosa significa letteralmente perdono? Lui prende la trasgressione e la porta lontano. La porta lontano per non essere più vista. È lì, lontano. Il Signore perdona. Non solo, il Signore copre. E non copre a metterci una pezza su. No, copre piuttosto come quando è successo col popolo di Israele. Vi ricordate? Loro hanno coperto gli stipiti delle porte con il sangue degli agnelli. No, vi ricordate anche solo dal film? Per questo l'angelo della morte è passato avanti. Non li ha colpiti perché erano coperti dal sangue. Cristo Gesù è l'agnello di Dio perfetto. Il suo sangue ci copre, ma non solo ci copre, il suo sangue ci lava e ci purifica perfettamente. Il Signore perdona, porta via, copre e non solo, non conta più. Questo è quello che significa non imputa. Non ce lo mette più a conto quello che abbiamo fatto, il peccato che abbiamo fatto o chi noi siamo stati. Non ce lo presenta più come un conto da pagare. Lui lo cancella. Questo è il nostro meraviglioso Dio. Questo è quello che porta veramente pace. Questo è quello che porta veramente beatitudine. L'ultima cosa che un beato è uno che non si inganna. Alla fine del verso 2 c'è scritto: nel cui spirito non c'è inganno. Il beato non si autoinganna. Non si dice che è tutto a posto quando in realtà tutto a posto non è, no? No, il beato, chi è veramente beato, che ha raggiunto quel livello di soddisfazione, di pace, di gioia, non si dice, vabbè, io non è che sono proprio cattivissimo, io sono una persona buona, ho fatto questo, cerco di impegnare, do una mano a tutti, insomma, in buona sostanza, non ho fatto mai male a nessuno, sto a posto. Il beato non dice mai così. Perché la parola di Dio ci dice che tutti abbiamo peccato e tutti siamo privi della gloria di Dio. Il beato non si auto-inganna. E quando è perdonato il beato, non inganna se stesso. Non dice, vabbè, siccome il Signore perdona, grazie a Lui, meno male che Lui c'è, allora io posso anche ricadere, pazienza, tanto il Signore mi perdona. Il beato non si inganna così. Il beato dichiara guerra al peccato nella sua vita. Il beato non inganna se stesso, ma dice: questa cosa non ha più posto nella mia vita perché io sono stato perdonato. Questa è la meravigliosa notizia del Salmo 32. Questa è la bella notizia. Perché avete notato nei salmi, nei primi cinque versi ci sono proprio queste tre parti. C'è la condizione del beato, che vi ho appena spiegato, che è la bella notizia. E poi c'è un'altra parte, cioè la condizione, lo stato in cui si trova il non beato, il non perdonato, il condannato. cerchi, adesso vediamo. E poi c'è una chiave, una soluzione al verso 5. Questa è la chiave alla porta che apre verso la via del Salmo 1. Questa è la chiave che porta alla trasformazione. Quindi abbiamo appena visto qual è lo stato del beato, qual è lo stato del non perdonato, del condannato. E questa è un'immagine molto molto diversa. Guardate quello che c'è scritto: finché ho taciuto, finché sono stato in silenzio. E non sappiamo perché Davide, il salmista, si è stato zitto. Forse perché ingannava se stesso. Diceva: no, ma io sto a posto. Quando in realtà non era. No, vabbè, tutto bene, a posto. Ed è stato in silenzio. Oppure forse per orgoglio. Si è detto: no, io non ho bisogno di nessuno. Io da questa palude ce la faccio ad uscire da solo. Non ho bisogno di nessuno che mi salvi. Non sappiamo perché ha taciuto Davide. Però fin quando è stato zitto, due cose gli sono successe. Uno, le sue ossa si consumavano. Le sue ossa si consumavano. Ora io questo non so che cosa significa, però so che cosa significa rompere un osso, no? E vi assicuro che fa male. Fa male, ne ho rotte 3 o 4, quindi fa male per davvero. Una volta ho rotto la clavicola, sono andato in ospedale, me la dovevano mettere a posto. L'ortopedico fa: tutto a posto? Io ho detto: sì, sì, tutto bene, tranquillo. Allora lei va, ok, io vado, ok, spinge, tric. Io, ok, il dottore mi guarda, tutto bene? Io... sì, sì, boom, e sono svenuto. Fa male, fa tanto male. Anzi, vi dirò, forse il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno, quando non riesci a dormire la notte, quando il dolore è costante, ti toglie le forze durante il giorno, beh, forse questa cosa si avvicina a quello che il salmista Davide voleva dirci. Le sue ossa si consumavano dal dolore. Non solo, era asciutto, era arido, era completamente disidratato. Le ossa non solo erano spaccate, ma erano anche secche, senza vita. Che differenza dall'albero del primo salmo. Vi ricordate questo albero rigoglioso, sempre verde, che porta frutto perché è vicino a quel fiume che ha sempre acqua da prendere. Questa è la differenza. Perché si trova qui? Perché si trova qui Davide? Perché c'è scritto. Non so se l'avete notato, se quando l'avete letto insieme a me. Perché la tua mano si appesantiva su di me. La mano di chi? La mano di chi si appesantiva su Davide? La mano di Dio. Era la mano potente, gloriosa, forte, maestosa di Dio, che pressava su Davide fino a schiacciargli, a rompergli le ossa e fino a inaridirle. Perché? Perché Dio odia il peccato e Dio non può stare vicino al peccato, lo deve allontanare. Quella mano sarà pesante, pesante, pesante e distruttiva. Quella mano, se non siamo perdonati, se non siamo in Cristo Gesù, non è una mano che solleva e aiuta, è una mano che condanna e porta dolore. Il Signore ama, odia così tanto il peccato che farà di tutto per strappare quel cuore di pietra e per mettervi un cuore di carne, anche se porta dolore. Dio odia il peccato e fin quando noi stiamo in quella situazione di non parlare, di non confessare, la sua mano sarà pesante da distruggere. Pausa. E pausa non lo dico io, pausa lo dice il Salmo. C'è una parolina che è Sela, molto probabilmente significa proprio pausa. Ci dobbiamo fermare perché non resisteremmo troppo a questa melodia, vero? A queste parole sono troppo dure, dobbiamo fermarci qua. A nessuno piace tutto questo, è troppo pesante. Però fratelli e sorelle, se non capiamo la profondità del peccato, se non capiamo la palude nella quale siamo nati e dalla quale, nella quale noi abbiamo scelto di continuare a rimanere e dalla quale il Signore ci ha tirato fuori, non potremo mai apprezzare, lodare e ringraziare il Signore per quello che ha fatto. Quindi, brevemente, che cos'è il peccato? Il peccato è questo, vedete, c'è una definizione del peccato. Il peccato è tutto quello che non si allinea a chi Dio è e a ciò che sono i suoi principi. E questo non allinearsi, noi lo facciamo in azioni, con le attitudini e proprio con la nostra natura stessa. In altre parole, che cosa significa? Il peccato è non combaciare, non allinearsi, non unirsi a tutto quello che Dio è. Che cosa è Dio? Dio è santo, santo, santo. Dio è amore, Dio è pace, Dio è giustizia. Tutto quello che noi facciamo, che noi sentiamo nei nostri sentimenti, nelle nostre attitudini, e tutto quello che noi siamo, che non si allinea a questo, è peccato. Non solo, tutto quello che non si allinea, cioè che non va al passo con quello che Lui ha comandato, è peccato. E noi lo facciamo con le nostre azioni, lo sappiamo benissimo, no? O sono l'unico che pecca qui dentro? Spero di no. Noi pecchiamo con le nostre azioni. Non rubare, se rubiamo è un'azione e questa azione è peccato. Non mentire, non eccetera, eccetera, eccetera. Questo noi facciamo con le nostre azioni. Non solo noi pecchiamo con le nostre azioni, noi pecchiamo con le nostre attitudini. Che cosa significa questo? Le attitudini è quello che noi proviamo nel nostro cuore. E quando Gesù ha detto, voi dite non ammazzare, io vi dico, non abbiate rabbia verso vostro fratello. Capite? Questo sta ancora più a fondo, è proprio nel nostro cuore. Tutte quelle attitudini, tutte quelle cose che noi sentiamo nel cuore, che vanno così a fondo, che non si allineano a chi Dio è, a quello che Lui ci ha detto e ci ha chiesto, è peccato. Rabbia, paura, le sue sorelle, ansia e depressione, sono peccati che vanno nel profondo del nostro cuore e non si allineano a chi Dio è. Non solo questo, quindi non solo noi pecchiamo con le nostre azioni, con le nostre attitudini, quindi per esempio noi non solo rubiamo, ma desideriamo la cosa degli altri, vedete, con le attitudini, ma noi pecchiamo proprio di natura. Noi siamo di natura peccaminosi, noi siamo nati in quella palude e noi abbiamo scelto di rimanerci lì. Per questo Paolo in Efesini dice: eravamo per natura figli di ira, figli del peccato. E Davide lo conferma nel Salmo 51, pochi salmi dopo: fin dalla nascita io sono stato generato nell'iniquità, nel peccato. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Per questo Gesù dice a Nicodemo: hai bisogno di nascere di nuovo. Perché? Perché la tua prima natura, la tua prima essenza, quello che prima sei, è peccato e hai bisogno di essere cambiato. Questo è il peccato, questo è quello che ha separato noi da Dio. E per questo noi, se non siamo in Cristo Gesù, se non abbiamo gridato a Lui in fede, non possiamo essere beati. Questa è la brutta notizia. C'è una buona notizia. Il Vangelo, Evangelion, letteralmente significa buona notizia, perché c'è una brutta notizia. E la brutta notizia è il peccato. Pausa, mi fermo qui. Non possiamo andare troppo avanti. Dobbiamo passare alla buona notizia. La buona notizia si trova nel verso 5. La buona notizia c'è ed è meravigliosa, perché Dio ha fatto una strada, Dio ha cambiato le cose. Sentite quale speranza, quale salvezza, quale chiave di trasformazione per entrare per quella strada e incontrare Dio ed essere beati. Sentite come lo mette il Nuovo Testamento in Efesini 2. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. Questo è il nostro miracolo, questo è quello che è avvenuto anche in Davide. Davide, in fede, ha visto Cristo Gesù in lontananza ed è stato trasformato. Come? Lo vediamo. Anche qui c'è una triplice azione. Allora, cane a tre teste, il peccato. Dio interviene tre volte, perdonando, coprendo e non contando più. La chiave a tutto questo, per aprire quella porta, per uscire da quella palude, sono queste tre cose. Sono contenute nel verso 5. Guardate un po' che cosa fa Davide. Non tace più. Quello è, non tace più. Fra queste tre cose, ammette, non copre e confessa. Ammette, non inganna se stesso Davide più, perlomeno. Non inganna più se stesso a dire è tutto a posto, quando tutto a posto non è. Non inganna più a dirsi, vabbè, io è vero, ho peccato, però non volevo farlo, non, mi hanno costretto e mi sono trovato incastrato in questa cosa. No, no, Davide non fa più questo, lui ammette. Lui dice, sì, Signore, forse ammette prima a se stesso e poi al Signore si dice, sì, sì, io ammetto. La prima cosa è che ammette, la seconda è che non copre. Il Signore copre e lava. Davide non copre, non vuole nascondere o nascondersi. La terza cosa è confessa. Vedete la progressione? Prima nel cuore ammette, poi sceglie di non coprire più, basta con questa cosa e dice io confesserò al Signore. E il verso non finisce qui. Fratelli e sorelle, amici, qualunque persona che legge questo salmo, questa frase non può leggerla con leggerezza. Dobbiamo fermarci e guardarla per bene. Perché? Perché è il risultato di questa triplice azione. Davide ammette, Davide non copre, Davide confessa e poi e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. E tu hai perdonato il mio peccato. E tu hai cancellato il mio. Io ho ammesso, io non ho coperto, io ho confessato. E tu hai perdonato il peccato del mio cuore. E tu hai perdonato il mio peccato. Questo è il miracolo, questo è il miracolo dell'Evangelo. Questa è la buona notizia. Questo è il gridare a Lui, questo significa dalla palude dove ci troviamo alzare la nostra mano e dire Signore io sono qui, ammetto, confesso. Sapete Lui cosa fa? Lui ci prende per mano e ci tira fuori. Lui perdona il peccato del nostro cuore, Lui perdona il peccato del mio cuore, Lui perdona il peccato del tuo cuore. Questo è il miracolo, è il glorioso amore che Dio ha per noi. Ed è meraviglioso. Ora è chiaro che noi ci possiamo trovare in questi due luoghi, in queste due posizioni stasera. O siamo beati, o sappiamo che siamo perdonati, o no. O sappiamo che sinceramente non abbiamo mai gridato a Dio. E che è da troppo tempo che ci siamo dimenticati di ammettere e gridare a Lui. Questa sera io non so dove ti trovi, però se ti trovi nel peccato, sono qui a dirti, no, non sono io qui a dirti. È il messaggio del Salmo 32, è quello che il messaggio del Salmo 32 ci dice. C'è peccato che deve essere perdonato. La parola di Dio ti dice, hai peccato, vivi nel peccato, essenzialmente chi tu sei è peccato se non chiedi perdono a Dio. C'è questo grido che devi alzare, ci dice il Salmo 32. Alzati e lancia questo grido e Lui perdonerà il peccato del tuo cuore e Lui ti darà quella nuova vita in Cristo Gesù. Tu non sarai più condannato e dannato eternamente, ma sarai salvato. Se questa sera ti trovi qui, non puoi posticipare, non puoi rimandare questo grido. Per questo nel versetto 6 c'è scritto, perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. Un altro verso nella parola di Dio dice, oggi è il giorno di salvezza. Se riconosci che ti trovi lì, lancia quel grido. Oggi è il giorno di salvezza, il Signore non ti guarderà con giudizio. Il Signore prenderà il tuo peccato e lo porterà lontano. Il Signore lo coprirà, il Signore non lo conterà più se tu lanci quel grido questa sera. Possiamo anche essere beati. Sai di essere beato. Sai che quella volta che hai gridato a Dio per la prima, per la seconda, per la decima volta, in tutta sincerità. Non per evitare le conseguenze del peccato, non per evitare la sofferenza, ma sinceramente perché ami Dio e hai ammesso che è contro di Lui prima e più di tutto che hai peccato. E hai lanciato quel grido, hai detto sì Signore, io sono in quella palude, ho scelto di rimanere in quella palude e adesso io grido a te, io alzo quella mano, per favore tirami fuori. Questa sera, se hai fatto questo, hai bisogno di sapere, tu sei perdonato. Lo sai? Te lo sei mai detto? Guardate, è questo il messaggio del Salmo 32 che ci chiama a fare, ci chiama a ricordare. Tu sei perdonato. Chiudi un attimo gli occhi insieme a me. Se hai fatto quella preghiera, se hai lanciato quel grido, ripeti dopo di me: io sono perdonato. Di nuovo, ad alta voce: io sono perdonato. Io sono perdonato. Tu sei perdonato. Tu sei perdonato. Il Signore ti ha fatto uscire da quella palude, ti ha tirato fuori, ha preso la tua mano e ti ha fatto uscire fuori. Ovviamente forse qualche macchia di fango ti rimane ancora addosso. Sicuramente sei ancora su quel percorso, su quella strada per essere completamente pulito, ma non sei più in quella palude e ancora di più non appartieni più a quella palude. Essenzialmente chi tu sei, la tua natura è stata trasformata, lo sai questo? Dovresti essere molto più contento di quello che vedo dalle vostre facce, eh? Dovresti essere molto più contenti se sai che sei in Cristo Gesù e sei una nuova creatura, perché questo è il miracolo che è avvenuto. Lui ti ha trasformato, ti ha dato una nuova vita, ti ha dato una nuova natura. Non sei più peccato, non sei più dannato, non sei più condannato, sei libero. Per questo puoi innalzare canti di gioia. Il Salmo finisce proprio così, il verso 11, con tre comandi, con tre imperativi che sono dei comandi: rallegratevi, esultate e gioite. In questa traduzione, una traduzione migliore sarebbe mandate grida di gioia. Dobbiamo gioire, dobbiamo gridare di gioia. Perché? Perché noi siamo nuovi, non siamo più in quella palude, siamo usciti. Sì, c'è da ancora lavorarci su, sì, il suo spirito e la sua grazia devono continuamente ancora lavarci e purificarci, ma non siamo più in quella palude, non siamo più in quella palude, ed è un miracolo meraviglioso. Sapete, questa gioia non è quella gioia, sai, della battuta, del buffone o del comico, no? Che ti fa ridere per quei pochi secondi e poi non c'è più. No, questa gioia che noi ricordiamo l'uno all'altro e incitiamo l'uno all'altro ad avere, è una gioia incrollabile, è una gioia salda che rimane a prescindere dalle circostanze. Noi piangendo gioiamo, non è vero? Ma è così, noi piangendo gioiamo. Questo è quello che diceva l'apostolo Paolo: come sofferenti eppure sempre allegri. Sofferenti, come sofferenti, eppure sempre a lei. Questa è la nostra gioia incrollabile. Non siamo più in quella palude. Sì, c'è ancora da togliere qualche macchia di dosso. Sì, non possiamo imbrogliarci. Dobbiamo dichiarare guerra al peccato nella nostra vita. Ma questa sera devi sapere con forza, con convinzione, perché il nemico farà di tutto per trattenerti in quella palude. Il nemico farà di tutto per ricordarti che tu vieni da quella palude e dovresti rimanerci, ma tu lo puoi guardare dritto negli occhi e dirgli: no caro, io sono in Cristo Gesù, io sono una nuova creatura e da quella palude sono uscito. Amen. Dobbiamo vivere queste cose come corpo. Io ho bisogno che tu ricordi a me queste cose e io ho bisogno di ricordare queste cose a te. E non c'è luogo migliore per farlo se non nei gruppi familiari. Fai parte di un gruppo familiare. Non c'è luogo migliore per vivere il Salmo 32 che non in un gruppo familiare. E quindi se fai parte di un gruppo familiare, ti ringrazio, ti benedico soprattutto perché fa bene a noi tutti far parte di un gruppo. E io prego che possiamo vivere sempre più queste cose. E queste cose, le cose un po' più pratiche che sto per dirti, sono, dovrebbero essere la traccia per i nostri gruppi familiari. Già lo sono, lo so, ma ancora di più. Quindi benedico ogni capogruppo, che Dio ti benedica, che Lui ti possa dare nuove forze, che Lui possa aprire i tuoi occhi sempre di più a vedere queste cose vere nella tua vita, affinché possiamo sempre più viverle nei nostri gruppi. Perché i nostri gruppi è il luogo migliore per vivere il Salmo 32. Se non fai parte di un gruppo, ti invito a farne parte, perché è dove noi possiamo vivere meglio queste cose. Quali cose? Le abbiamo già dette, ve le ripeto soltanto in maniera un po' più pratica. Nei gruppi è dove noi possiamo ricordare di confessare. Confessare non è facile, mi rendo conto, ma la parola stessa ci chiama a confessare i peccati l'uno all'altro. Perché? Perché dobbiamo confessare i peccati l'uno all'altro? Che cosa diceva il Salmo 32? Perché se confessiamo i nostri peccati, immediatamente passiamo da uno stato di condanna, da una cosa brutta, brutta, brutta, a una cosa meravigliosa. Usciamo da quella palude. Per questo nei gruppi noi confessiamo. E ricordiamo quali sono le promesse a chi confessa. Qual è la promessa del perdono in Cristo Gesù? Non c'è nulla di meglio che un gruppo familiare per far tutto questo. Quindi la prima cosa è che ricordiamo di confessare. La seconda è che ci ricordiamo delle promesse di Dio. Nei gruppi familiari, l'uno all'altro ricordiamo quali sono le promesse che Dio ci ha fatto. E quali sono le promesse che Dio ci ha fatto? Che quella mano da pesante e distruttiva si trasforma in una mano che sostiene e solleva. Non lo dico io, lo dice il Salmo. Guardate al versetto 7 dice proprio questo: adesso tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nell'avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Nei gruppi familiari ci ricordiamo che se siamo perdonati, se siamo in Cristo Gesù, Dio non è la mano pesante che ci schiaccia, ma Dio è il nostro rifugio. Lo ricordi? Dio è il tuo rifugio. Domani mattina puoi iniziare la tua settimana, puoi andare a lavoro, a scuola, sapendo che Dio è per te e non contro di te. Dio è il tuo rifugio, Dio è l'aiuto nelle tue difficoltà, a prescindere da quello che ti aspetta domani mattina o stasera quando esci di qui. Dio è il tuo aiuto. E terzo, Dio ti circonda di campi di liberazione. Forse non oggi, forse non domani, ma la libertà completa verrà. Per questo noi abbiamo un canto che è diverso dagli altri, che dice libertà in Cristo Gesù. Questo è quello che noi facciamo nei gruppi, questo è quello che io prego e sprono ognuno di noi a fare sempre di più nei gruppi, a ricordarci chi Dio è per noi. Quindi ricordiamo che confessare è la via al perdono, ricordiamo chi Dio è per noi. E l'ultima cosa è dove incoraggiamo a cantare. Dobbiamo, il popolo di Dio è un popolo che canta. Sapevate questo? Sapevate che non c'è nessun'altra religione del mondo che canta? Gli induisti non cantano, i buddisti si lamentano, no, hanno questa, no, però non è proprio un canto gioioso. I musulmani non cantano. Il popolo di Dio canta perché abbiamo ricevuto una gioia eterna, che è la vita in Lui. Quindi nei gruppi ci ricordiamo di cantare, di gioire. È un comando: se te la senti o meno, devi gioire. Questo a me fa così bene. Chiedete a mia moglie quanto mi è difficile questa cosa, perché nelle mie lacrime la prima cosa che mi viene da fare è: ma tu lo sai quanto è difficile e dura la mia vita? Il Salmo 32 mi dice: gioisci, comando, gioisci, gioisci, gioisci. Io ho bisogno che me lo ricordi. Io ho bisogno di ricordartelo. Cantiamo canti di gioia. Amen. ci alziamo in piedi. Ringrazio il Signore per la sua parola. La sua parola, sono sicuro che ha parlato questa sera. La sua parola non torna mai a vuoto. E se questa sera tu hai sentito che ti trovi in quella posizione di condannato e non di perdonato, non c'è cosa più terribile. Guardate, io l'ho descritta, ma non hai neanche la più pallida idea di quello che significa. Non puoi uscire da questo luogo se non perdonato, perché quel cane ti distruggerà e ti farà morire. E non morire solo temporaneamente, fisicamente, qui, quando i tuoi giorni finiranno su questa terra, ma morirai eternamente. Per questo questa sera è il giorno di salvezza. Per questo questa sera tu puoi alzare la tua mano, lanciare quel grido e dire: sì Signore, io ammetto, ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno di te, io voglio te, prendi la mia mano e tirami fuori da quella palude, perché sono stanco, stanco, stanco di stare in quella palude, di essere morso costantemente. Se questa sera riconosci di essere in quella palude, io ti prego di alzare questa mano. Chiudiamo i nostri occhi. Alza la tua mano, che questa mano possa essere quel grido che grida il Signore. Sì, vedo la tua mano, la puoi abbassare. Alza la tua mano se dici: Signore, io ammetto, tirami fuori, ho bisogno di essere tirato fuori da quella palude, ho bisogno di te, tirami fuori, sono stanco. Vedo le vostre mani, so che ce ne sono altre. Alziamo le nostre mani, alziamo questo grido a Dio. Arrendiamo la nostra vita a Lui. È un atto di fede e dire: Signore, so che solo Tu mi puoi salvare, per questo io alzo la mia mano e dico: sì, salvami. Tante mani si alzano, le potete abbassare. E Signore Gesù, io ti prego per queste confessioni di fede. E Padre, proclamo in questo momento il Tuo miracolo. Padre, proclamo in questo momento il passaggio dalla morte alla vita. Padre, in questo momento, per fede, credo che queste persone in questo momento escono dalla palude a vita eterna, Signore, perché Tu lo prometti, perché Tu hai visto questi gridi, Tu conosci il grido del cuore, Tu conosci i gridi sinceri, e nel nome di Gesù io proclamo salvezza, io proclamo liberazione. Padre, io proclamo libertà dal peccato. Padre, peccato dalle azioni, peccato dal cuore, peccato in natura, nel nome di Cristo Gesù e per il sangue di Cristo Gesù, pulita, via ogni macchia, nel nome di Cristo Gesù. E tu che hai alzato la mano, ti do il benvenuto, benvenuto nella famiglia di Dio, benvenuto, adesso fai parte dei perdonati. Adesso puoi alzare un altro grido, che è un grido di gioia, e puoi alzare quel grido che dice: io sono perdonato. Ho anche detto che c'è un'altra posizione, la posizione del beato, e molti di noi questa sera hanno bisogno di sapere che siamo beati. Sei beato. Se lo senti o non lo senti, Cristo Gesù va oltre. Cristo Gesù va oltre quello che senti. Cristo Gesù guarda la fede, e se tu credi che Lui ti ha perdonato, Lui ti ha perdonato. Se tu credi che Lui può perdonare, se tu credi che Lui ti prende da quella melma, da quel fango, e sempre di più ti pulisce di gloria in gloria, tu puoi proclamare: io sono perdonato, io sono libero. E allora innalza questo grido. Innalzalo se lo sai, dalla prima fila all'ultima, innalziamo questo grido in questo momento. Se sai di essere perdonato, dillo, dillo a te stesso. Il Salmo 32 ci chiama a predicarlo a noi stessi, a gridarlo a noi stessi, a cantarlo, a proclamarlo: io sono perdonato. Forse alziamo la nostra voce, alza le tue mani a Dio. Non lo stai facendo con abbastanza forza, forse non hai ancora trovato la libertà per farlo, forse non hai ancora trovato la concentrazione piena. In questo momento chiudi i tuoi occhi, alza la tua voce al Signore e grida: io sono perdonato, io sono liberato. Gloria a te Dio, gloria a te Dio, perché non appartengo più a quella melma, non appartengo più a quella palude, appartengo a Dio, in Cristo Gesù sono suo figlio. Proclamalo in questo momento, alza la tua voce, Signore.